Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1839. Maltempo, esondano i fiumi nel nord Italia, sommerso un paese di 500 anime. Prima ferrovia nella penisola collega Napoli a Portici. Un ritratto senza pittura, dalla Francia arriva il daguerrotipo. Prima la scala di successo per l'opera di un giovane di Parma, Giuseppe Verdi. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura le notizie sulla devastante alluvione che ha colpito il nord Italia. Si sono rotti gli argini di una serie di fiumi, tra cui il Mincio, l'Adda e naturalmente il Po, in questo novembre del 1839. Il fiume ha trascinato con sé persone, case, decine di migliaia di capi di bestiame, soprattutto nel nord Italia. Le notizie più preoccupanti arrivano dalla zona di Lodi, dove un intero paese, Noceto, 500 abitanti, sarebbe stato sommerso dalla piena, più o meno nella zona nella quale il Lambro si getta nel grande fiume. Del comune non vi sarebbero più tracce. A Piacenza l'acqua del Po ha superato di mezzo metro la massima piena mai registrata, quella del 1801, mentre a Torino la piena ha toccato i 6,27 metri. Noi però adesso andiamo dall'altra parte della penisola. A Napoli nasce la prima ferrovia. L'inaugurazione è stata un vero trionfo. Alle 10 del 3 ottobre, alla presenza del re Ferdinando II, la locomotiva a vapore inglese Longbridge, ribattezzata Vesuvio, è partita da Napoli per giungere a Granatello di Portici circa 10 minuti dopo, tra ali di folle in festa. Lungo i 7,25 chilometri del percorso, la Vesuvio ha messo in mostra la sua potenza e la sua velocità, orgoglio del Regno delle Due Sicilie. Negli 8 vagoni c'erano 258 passeggeri che sono arrivati a destinazione tutti sani e salvi, nonostante i timori della vigilia, anche se re e ministri hanno comunque preferito accomodarsi in vettura solo per il terzo viaggio. Sul loro esempio, dal 3 ottobre al 31 dicembre, ben 131.116 passeggeri hanno voluto provare l'ebbrezza del viaggio in ferrovia. La linea, primo troncone del progettato percorso Napoli-Nocere, Napoli-Castellammare, è il segno di una rivoluzione che anche in Italia sta prendendo piede. Al re piace anche per ragioni militari e così a Pietrarsa nascerà un apposito opificio, mentre il concessionario ingegnere Armand-Joseph Bayard de la Vintry sta già ipotizzando nuove tratte. Il primato è tutto napoletano dunque, ma anche al nord, è il caso di dirlo, qualcosa si muove. L'anno scorso il Granduca di Toscana ha autorizzato la costruzione di una linea tra Livorno, Pisa e Firenze e nel Lombardo-Veneto manca poco all'inaugurazione della Milano-Monza. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. C'è già chi tra i pittori specializzati in ritratti teme di perdere il proprio mestiere. L'Accademia delle Scienze Francesi ha riconosciuto ufficialmente l'invenzione di Louis Daguerre, che ha studiato un metodo chimico con il quale, grazie alla luce, riesce ad imprimere su una lastra coperta da uno strato d'argento un'immagine visualizzata tramite una lente piazzata su una specie di scatola, immagine che viene chiamata daguerrotipo dal nome del suo creatore. In Italia, a Torino, è stata già costruita una copia della macchina. L'invenzione di Daguerre è in vendita a 400 franchi. In chiusura parliamo di musica, di quella che sentite, tratta dalla prima di un nuovo musicista e che sembra possa avere un discreto successo. Applausi alla Scala a Milano per Oberto Conte di San Bonifacio, del 26enne musicista Giuseppe Verdi. Le repliche sono state 16 e l'impresario della Scala, Bartolomeo Merelli, ha commissionato al ragazzo un'opera comica. Questi applausi a me d'intorno. È tutto, sul nostro sito potete scaricare anche il nostro foglio quotidiano, visitate il nostro blog, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Vi ricordiamo che il 12 maggio saremo al Salone Internazionale del Libro di Torino con una puntata speciale, previsto pubblico. Vi aspettiamo quindi il 12 alle 12 nel padiglione numero 2. Dettagli e informazioni anche sulla nostra pagina Facebook. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.